tre punti. Il primo punto, noi consideriamo positiva la richiesta di CGIL e CISL e UIL ai ministri, al ministro del lavoro, ai ministri competenti, perché oggi purtroppo non sono più previsti i congedi INPS per i lavoratori, genitori di figli che hanno meno di 14 anni che si trovano con la scuola, la classe chiusa e i figli coinvolti in didattica a distanza, permessi che non sono più disponibili dal 1 febbraio. CGIL e CISL e UIL chiedono al governo di ripristinare i permessi per tutti i lavoratori, genitori di figli con meno di 14 anni, a prescindere dal colore del rischio sanitario del territorio in cui esiste la scuola, perché oggi invece questi permessi sono previsti solo in zone rosse. In seconda battuta, noi chiediamo alle imprese di rendere possibile l'utilizzo e lo svolgimento delle attività lavorative smart work per tutti i lavoratori per cui l'attività è possibile svolgere da remoto, come forma di riduzione del rischio contagio, così come previsto nel protocollo nazionale CGIL e CISL e UIL Confindustria. E in ultima battuta, diciamo, siamo dentro una fase di emergenza. Da lunedì ci troviamo senza coperture per i lavoratori genitori con figli con le scuole chiuse, quindi in attesa e sostituendo in questo momento, integrando se dovessero essere di nuovo messi a disposizione o comunque per dare una copertura immediata, chiediamo alle aziende di fare accordi sindacali a livello aziendale con l'RSU o di intervenire loro in modo autonomo per dare permessi aggiuntivi per i lavoratori che si trovano in difficoltà perché si trovano con le scuole chiuse, con i figli a casa e quindi la necessità di attivare permessi aggiuntivi. A partire da queste ore noi stiamo chiedendo incontri a tutte le aziende di mobilitare i nostri RSU RLS per fare accordi in tal senso, ma in ogni tipo di azienda bisogna che ci sia una risposta immediata. Le aziende sono aperte, non c'è la chiusura delle attività produttive, bisogna che le aziende che sono aperte vengano incontro ai propri dipendenti. Una misura del genere, lo smart working in sostanza, aiuterebbe anche il contenimento della pandemia. È quello appunto che sosteniamo, già come previsto nel protocollo nazionale del 24 aprile, l'utilizzo della diffusione dello smart work per tutte le attività dove questo è possibile è innanzitutto una forma di fronte alla situazione di difficoltà per ridurre il rischio del contagio. Oltre alle aziende, vi state confrontando anche con le istituzioni? Ho visto che CGIL e CISL e UIL dell'Emilia Romagna hanno fatto una richiesta alla regione per intervenire qualora in anticipo, qualora non arrivino risposte a livello nazionale.